Roma Trastevere, 18 marzo 1970. Care Luterio, la stanzetta alla quale bambina confidai i miei primi sogni, oggi assista al frantumarsi delle mie ultime illusioni. Sono amareggiata, Eleuterio. Dalla finestra accanto, un signore straniero guarda con il cannocchiale la cupola di San Pietro. E io penso che il cannocchiale non è che il buco della serratura per spiare il panorama. E penso anche che sei un cretino, Eleuterio. Non si litiga per un elenco di nomi gettato in aria in un momento di nervosismo. Sempre tua. Roma Parioli, 19 marzo 1970. Cara sempre mia, la stanzetta alla quale bambina confidasti i tuoi primi sogni e oggi assista al frantumarsi delle tue ultime illusioni, per farmi cosa gradita dovrebbe, invece di perdere tempo in frivolezze, raccogliere le tue ultime volontà. Forse sono un cretino a litigare per un elenco di nomi gettati in aria in un momento di nervosismo, ma quando l'elenco in parola è rilegato in cartone doppio telato e una volta lanciato termina la traiettoria sul mio occhio sinistro, beh, allora evviva il cretinismo! Ciao! Ho scritto: prega tua madre di venire al mare con noi quest'estate. Ho comprato una barca e mi serve una boa, Eleuterio. Roma Trastevere, 20 marzo 1970. Care Eleuterio, gatticchio. Si tratta di un gatto, sì, ma con l'icchio partenopeo. Si tratta di quell'icchio che sminuisce. Avvocaticchio, portiericchio, arbitricchio. Mammina ha letto la faccenda della boa e credo che si sia alterata. Credo, sì, perché ha preso il tuo ritratto a olio e lo ha appeso sotto le corna del cervo che papà, tornando dal safari, ha appeso in salotto. Insomma, tu stai al posto del muso del cervo. Ma chissà perché. Per la strada sta passando il solito vecchietto che porta il pony al parco pubblico. E io penso che il pony è l'utilitaria dei cavallerizzi. E penso anche che mi dispiace per il tuo occhio sinistro. Avevo mirato al naso. Sempre tua. Roma Parioli, 21 marzo 1970. Inammissibile sempre mia. Da quando non ci sei, la mia vita sta diventando una tragedia. Mi sono scoperto un paio di difetti. È grave. Quando mi sei vicina, sono talmente tanti i tuoi difetti che i miei diventano pregi. Torna, anche perché qui succedono cose strane. Ti ricordi il pianoforte laccato bianco che sta in soggiorno? Beh, qualcuno l'ha verniciato di nero. Ciao. Ho scritto: la portinaia ha svelato il mistero del pianoforte. Il nero non era vernice, erano formiche. Le formiche sono ghiotte di pane e marmellata e io, che non lo sapevo, ne avevo lasciate alcune fette sul pianoforte. Eleuterio. Roma Parioli, 22 marzo 1970. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo qui, nella casa che abbiamo messo su con tanto amore e con tanti sacrifici economici da parte tua. Questa bella casa, che sarebbe ancora più bella se tu non la mettessi in disordine sedendoti sulle poltrone, camminando sui tappeti e dormendo sul letto. Ho finito adesso di spolverare il cancelletto di ferro battuto che divide il soggiorno dalla stanza da pranzo. E io penso che il cancelletto è soltanto la radiografia di una porta. E penso anche al motivo della nostra ultima lite. Io ero lì che trafficavo mentre tu, con la scusa di dormire, stavi mettendo in disordine la poltrona del salotto. Eleuterio, Eleuterio, se dormi non fa niente, Eleuterio, ma se non dormi fammi il santo piacere di alzarti un momento da quella poltrona, chiaro? Che c'è? Che è successo? Non è successo niente, Eleuterio. Avevo il dubbio che tu fingessi di dormire. E infatti fingevi, perché appena ti ho detto due parole ti sei svegliato. Voglio dire, hai smesso di fingere di dormire. Io dovrei smettere di fingere di essere un uomo calmo. E ti dovrei strangolare. Non essere ignorante, Eleuterio. Avevo bisogno di stabilire se dormivi o no. Perché ti devo dire una cosa. E io avrei tanta voglia di stabilire se la vedovanza per un uomo è motivo di gioia o di dolore. Proviamo? No, non proviamo per niente, perché per avere un vedovo da una parte ci vuole una defunta dall'altra parte. E credo di intuire che... No, non proviamo. Peccato, sarà per un'altra volta. Non fare lo spiritoso. Se vuoi, fingi pure di dormire per non fare quello che dovresti fare. No, non ho più voglia di fingere di dormire. Mi è passato il sonno. Meno male, allora fai quello che devi fare. Telefona al falegname. E tu svegli un poveraccio che si è appena appisolato dopo un piatto di rigatoni a ragù inspiegabilmente mangiabili, perché telefoni al falegname. Quale falegname? Quello di mammina. Allora si chiama Geppetto. Solo Geppetto ricava fantocci da tronchi di legno. E perché dovrei telefonare a Geppetto? Perché le gambe sono orribili e le devi aggiustare. Sono anni che tua madre ha le gambe orribili. Proprio oggi gliele vuoi far aggiustare. Eleuterio, lascia stare mammina. Parlavo delle gambe della console. Digli che le rifaccia, glielo devi dire tu, perché a me non dà retta. Ma tu guarda che mi tocca fare per evitare la tragedia. Che numero hai, falegname? È sulla rubrica. Sulla rubrica. La rubrica. Dov'è la rubrica? Dove sta la rubrica? Dove vuoi che stia al suo posto? L'ordine è alla base di una vita regolata. Uffa, al suo posto non c'è, vicino al telefono non c'è. Vicino al telefono ci sono un paio di pinze, un pacco di ovatta e una bottiglietta di alcol. L'ordine è alla base di una vita regolata. Sei un cretino, Eleuterio. Le pinze sono lì perché mi servono per aprire il cassettino del mobile del telefono. Come vedi, non c'è maniglia. E siccome quando apro il cassettino con le pinze mi faccio quasi sempre male un dito, tengo a portata di mano l'ovatta e l'alcol. Ma quale grave peccato ho mai commesso per meritare una simile punizione? Quale? Sulla rubrica, la lettera F, il falegname non c'è. Non sei capace nemmeno di cercare un numero di telefono. Guarda la lettera Q. Falegname la lettera Q. Ma certo, per me è quello che incolla i tavoli, lettera Q. E per curiosità, il numero del mio ufficio sotto che lettera lo hai segnato? Alla lettera M, Eleuterio. Marito o ufficio? Sembra impossibile che un cervello umano, ma che dico umano, che un cervello comunque possa arrivare a simili deformazioni. E per i numeri di emergenza come ti regoli? Polizia alla lettera A, acchiappaladri, vigili del fuoco alla lettera S, spegni fuoco e via dicendo. E allora perché alla lettera B non c'è il numero di tua madre? Perché alla lettera B? Hai ragione. Barattolo va messo alla lettera C. Contenitore distrutto. Eleuterio, ho l'impressione che tu abbia insultato mammina. Non è un'impressione. Mammina non è un barattolo distrutto e non la devi mettere in mezzo ogni volta che bisticciamo. Hai ragione, non la dovrei mettere in mezzo, la dovrei mettere sotto. Dopo essermi fatto prestare un autotreno con rimorchio, perché se ci provassi con la mia macchina, addio macchina! Eleuterio, basta, chiedi scusa, se no torno da mia madre! Tornaci pure, ma portati lo scafandro, le balene a volte raggiungono profondità impossibili! Eleuterio! Vai pure, se mi devi telefonare, eccoti la rubrica, scriviti il numero alla lettera F, finalmente solo! Riprenditi la rubrica, tieni! Ehi, ehi, l'occhio, l'occhio, l'occhio! Io torno da mammina! Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ha telefonato qualcuno per me? Sì, ha chiamato il tuo amico Balbetti, ha lasciato il numero del telefono, l'ho segnato alla lettera C, compagno di scuola di mio marito. Dice se lo chiami.